Runtime Radio presenta OGM. E amici, buonasera, ormai non vi stupiamo più con effetti speciali. Runtime. E non si ferma più, ne voglio di più. Radio presenta OGM. Mostri dell'elite. Bello, avete sentito il dramma, ragazzi? Il dramma delle sigle? Vi siete resi conto? Proprio la furia della sigla che si scatenava su tutti noi questa sera, su me, sui compagni sodali di merende di questa sera, che sono Marco Gualdi. Ciao, vi sto chiamando dalla Mark Caverna. Dalla Mark Caltagirone Caverna? Esatto, esatto, che è un personaggio di fantasia, giustamente, quindi come Batman, quindi è la stessa cosa. Esatto, e che si trasforma in Pamela Prati, l'alter ego mitologico, ricordiamo. E poi abbiamo con noi dall'assolata, ma mi sa un par de palle perché mi sa che fa freddo anche lì, Puglia, Carmine Puccio Console. Buonasera Carmine. Confermo, assolata un par di palle, oggi coperto, vento gelido, 8 gradi di massima. Ma se fa freddo da te, fa freddo a maggior ragione qui a Roma da noi, o meglio a Monterotondo da noi, mi domando quanto freddo potrà fare a casa di Francesco Lobby Frontali, che si trova in quel di Reggio. No, qua la temperatura è stabilmente intorno ai 5-6 gradi, ma credo sia a casa mia perché fuori fa molto più freddo. E comunque, altro che i compagni di merende, ancora devo cenare. Infatti mi dovrà arrivare media res, quindi vi mangerò tranquillamente durante la trasmissione. Non me ne vogliate tanto. Ma io però mi permetterei di far notare che forse siamo un po' grandicelli ormai per essere mangiati. Ecco, io, se proprio vuoi mangiarci, mangiaci. Però mi butterei sui figli di Carmine, che mi sembrano quelli un pezzo alla volta. Io sono molto paziente, quindi. Vabbè. Che siamo un po' stoppacciosi, secondo me, specie Gualdi. Magari io e Carmine un po' di ciccetta in più ce l'abbiamo intorno agli ossicini. Gualdi, no, lo vedo io più stoppaccioso. L'ho tolta tutto. Cuccio ti ha dato del grasso, ti ha dato. No, intanto lo, no, intanto c'era lo, mica l'ho c'era dato torto. A me. L'ho dato a me in prima battuta. Oh, permettetemi di salutare Simone Pizzi, che questa sera non è in formazione perché aveva bisogno di riposare un po'. Non possiamo dire cosa, un segreto. No, non è vero, semplicemente. E vabbè, buon per lui, insomma, il bello della vita coniugale è anche quello, però insomma, al di là di questo. Insomma, vogliamo essere Non so, poi uno si è sposato, fa sesso. Ma in realtà non è, guarda, io non sono mai stato sposato, quindi non posso parlare, però mi sono stati raccontati degli aneddoti. Uno l'ho anche raccontato, mi pare, in diretta OGM, un amico che raccontava della moglie che una sera si è addormentata durante, la mattina dopo gli ha chiesto come è andata a finire. Perché per la serie hanno pareggiato, qualcosa del genere. Va bene, saluto però anche gli amici che ci hanno già raggiunto in chat. Abbiamo DJ Hooker da Revolve Radio, abbiamo Cuciniere dallo Spaccio Profondo, che cucina sempre poco in questo periodo, però insomma gli auguriamo di potercela fare. E poi auguriamo una buona serata, un buon inizio di serata e buon inizio di settimana a tutti quelli che ci stanno ascoltando ma si vergognano di ammetterlo e quindi non sono in chat. Non sai che io non ci ascolto per vergogna, pure io. Quindi ma infatti, no, invece no, io che non conosco la vergogna, il giorno dopo generalmente mi riascolto pure per vedere com'era andata. Pensa un po'. Un po' autolesionista, un po' unanico anche. Un po' di tutto, sì. Però vi dico la verità, io questa sera non ci volevo venire. Io stasera c'avevo da fare Night City. Proprio è il senso del dovere che mi ha spinto a esserci comunque. Però vi dico la verità, avrei preferito, con tutto il rispetto agli ascoltatori e dei sodali, avrei preferito stare a giocare a Cyberpunk malgrado tutti i bug che hanno dato il titolo a questa puntata. Penso che insomma è doveroso accennare un pochino l'argomento, anche se non siamo videoludica. Sì, poco perché non lo tratteremo, ma è il caso che sappiate che se lo fate giocare sul PC, se lo fate giocare PC degno di questo nome, se lo giocate su Stadia, se lo giocate come stavamo discutendo tramite il servizio di streaming di Nvidia legando il vostro account GOG o Steam, avrete un'esperienza con dei glitch, alcuni dei quali ci siamo raccontati tra di noi nella nostra chat privata in questi giorni, ma tutto sommato appagante. Sì. Se avete una console, fatevi il segno della croce al contrario e pregando, recitando delle omelie profane, ovviamente. Esatto. Sì, no, mi dicono dalla Germania, il mio amico Rico, che dispone di una Series X, che a lui sta girando bene sulla Series X. Grazie al cazzo ce l'abbiamo l'asset, mi sa di sì. No, ce lo dobbiamo. Grazie al cazzo. No, perché pare che con PS5 in realtà no. Ah, questo nei dettagli non lo so. Io quello che ho capito è che le console di precedente generazione, prima iterazione, quindi la PlayStation 4 base, la Xbox One X, proprio non ce la fanno. Sì. Oltre al fatto che il gioco è stato inevitabilmente ridotto di dettagli e di caratteristiche, ad esempio c'è molta meno gente in giro per Night City, c'è meno animazione, ci sono meno colori, ma questo poteva essere anche... All'inizio loro dovevano fare un gioco in terza persona, soltanto che mettere il personaggio nel gioco sarebbe diventato molto problematico, quindi l'ha fatto diventare in prima persona, così è diventato proprio in cui, cioè, all'inizio l'idea era diversa, però vabbè, guarda, a questo punto non mi stupirei, però l'idea è quella di far diventare in prima persona tutti i personaggi giocanti che trovi quando tu li incroci. Può essere un'idea, praticamente diventa una sorta di gioco di multipolarismo mentale, no? Tu e vai di hacking, sì vai di hacking, entri nella mente di un'altra persona, praticamente 10 piccoli indiani, se ti metti i punti in intelligenza vai di net grinding, che no, figata, esatto. E no, però dicevo che le teoricamente le versioni anche intermedie, quindi con la Xbox X Series, insomma quella potente ma della scorsa generazione, che non lo so proprio più come si chiama, Xbox One X, ok, e la PlayStation 4 Pro, teoricamente con la stessa versione ovviamente del gioco, dovrebbero avere i miglioramenti giusti. Il problema grosso della versione base era il frame rate. Ora poi ci sono tutti quanti i bug, tutti quanti i problemi che ci auguriamo verranno risolti patch dopo patch. Il problema è che con la PlayStation 4, che poi è il casus belli perché è la console più venduta, intanto salutiamo anche Rizzard che ci ha raggiunto e dice buon cyberpunk a tutti, e sostanzialmente raggiungeva in certi momenti, non arrivava a 20 frame per secondo, che è praticamente giocare a scatti, è fermo, è che una cosa a cui eravamo abituati a turni. Esatto, noi eravamo Syndicate Wars, ma è il momento per tutti. Il bello è che Syndicate non è a turni. No, Syndicate Wars per tutti, ragazzi, imparare a giocare a scatti, perché è uno sport importante anche questo, degli scattisti, cioè, è giusto. No, giusto. Pensavo a scacchi, pensa un po'. Forse, no, per favore, che poi viene fuori che di Kasparov ci sente Putin, si incazza e ci scatena. E ci fa il vaccino, ma attenzione, parliamo subito di vaccini, ragazzi, perché è bella questa notizia del vaccino, a me è piaciuta tanto, lo Sputnik. Sì? Così. Che praticamente la dottoressa, non so se è dottoressa comunque, dice lei che lo è, una certa Popova, va bene, Popova di donna praticamente, tu la guardi, quella Popova di dottoressa, che devi dire, se no è discriminazione. Anna Popova, un nome assolutamente poco usuale, come Maria Peroma, stessa cosa. Praticamente lei ha detto che non è il caso di utilizzare alcolici durante nei giorni precedenti e durante i giorni che intercorrono tra un vaccino e il richiamo del Covid, quindi praticamente circa 2 mesi. A questa cosa, a questa dichiarazione, il popolo russo tutto si è alzato, preferiamo morire di Covid piuttosto che rinunciare all'alcol per 2 mesi. Questo è stato un grosso problema, perché poi giustamente come fai a togliere l'alcol, la vodka al russo? Cioè, non è facile, quindi il dubbio è o probabilmente questo virus, questo antivirale, questo vaccino non funziona, per cui siccome la gente, i russi bevono anche dalla tenera età di 5 mesi, cioè da quando vengono svezzati più o meno, perché gli tolgono il latte e mettono sulla vodka. Secondo me quando si attaccano alla tetta esce comunque vodka, perché esce già qualcosa, già del latte comunque alcolizzante probabilmente. E comunque, cioè, forse sai che c'è, cioè, con questa scusa, tanto questi bevono, se non funziona è colpa di quello di loro che hanno giustamente bevuto durante l'assunzione, anzi durante il periodo di immunizzazione. Oppure forse magari potrebbe far male, però in realtà c'è Alexander Ginzburg, che praticamente sembra è lo sviluppatore del vaccino, che praticamente ha twittato con un meme, il famoso meme di Leonardo DiCaprio, che praticamente alza il calice di champagne, e lui praticamente ha messo: un bicchiere di champagne non farà male a nessuno, nemmeno al tuo sistema immunitario, quindi giustamente tutto a posto. Ma ha anche detto, aggiunto, che sarebbe comunque il caso di ridurre il consumo di alcol durante, insomma, questo periodo in cui il corpo costruisce l'immunità, insomma, quindi. Beh, Marco, io non voglio, come dire, sai che quando si tratta di discutere certe consuetudini del popolo russo, forse non è neanche, non ne vale nemmeno la pena. Quindi capisco, insomma, il loro disappunto, però credo che sia anche abbastanza ragionevole che, soprattutto se pensiamo a un popolo che beve come degli sfondati, può essere ragionevole che questo influenzi l'efficacia della costruzione immunitaria durante il periodo di... Perché tu non capisci che i russi vogliono arrivare ai 70 gradi alcolici, che permette veramente di essere immuni automaticamente senza bisogno di vaccino, perché il virus con 70 gradi di alcol muore, viene distrutto. Secondo me devono cominciare a passare allora al centerbio, al GNP, perché solo con la vodka mi sa che non ci arrivano. Per quanto la vodka loro probabilmente è un combustibile inerte, però latte di suocera. Mamma mia. Che botta. Io una volta un'assemblea dopo scuola che usciva alle 11 ci facemmo di latte di suocera, andammo in giro per all'epoca Salerno a fare figure di merda con la gente. Fu uno dei giorni più belli della mia vita, però. A ricordarlo, però. Lanciamo questo. Ho incontrato Giovanni Do Ferretti anche voi, o quella è una roba. Perché per fortuna non mi sono mai spinto, poche volte oltre, ho alzato il gomito. Poche volte non sono mai comunque andato oltre a stare male, a vomitare, quindi io ricordo in generale, altre persone no. Tu credi di ricordare, poi va approfondito se questi sono ricordi veri o sono costrutti della tua fase alcolica, Però comunque fatemi lanciare a questo punto, vediamo se amici in chat ci vogliono dare la loro testimonianza. Diteci qual è la sostanza più alcolica che abbiate mai bevuto, raccontateci anche com'era, perché non è detto che debba essere stata buona o cattiva, insomma vogliamo sapere un parere proprio completo sulla bevanda e anche sugli effetti che ha avuto. Però lo chiedo prima ovviamente a voi in chat. L'effetto più grave è quello che... Aspetta, io mi ricordo. L'effetto più grave è che hanno cominciato ad ascoltare GM, quindi sicuramente quello... Sì. L'effetto più grave è che non hanno smesso, secondo me. Mi ricordo che a un certo punto eravamo dietro al Duomo. A un certo punto abbiamo dovuto tagliarla con la birra, che venne un intruglio schifosissimo, ma lo buttammo giù tutto, però. Mamma mia. Parte poi ricordati le cazzate che fai a 16-17 anni. Però ragazzi, sì, per carità. Però vale l'adagio: uno può bere quello che vuole, l'importante è non mischiare. Quella abbiamo mischiato proprio all'origine, praticamente. Mamma mia, e vabbè, del resto alla se base, si fa il sommergibile, non so se conoscete il sommergibile. Sì. No. Chi ha detto no? Ma non hai mai visto? Hai visto Thor, il primo della Marvel? C'è un clamoroso esempio di sommergibile in una delle scene centrali. Gesù. Carmi, visto che ti vedo preparato, racconta il tecnicismo di come si prepara un sommergibile. Racconta Thor anche. Immaginate un boccale di birra di quelli grandi, da pinta, all'interno del quale viene immerso un bicchierino da sciottino con dentro il superalcolico. Ok. Ok, che varia, diciamo così, la ricetta tra virgolette del sommergibile varia a seconda delle latitudini, può essere whisky, in alcuni casi è vodka, in altri casi è gin, è una roba tendenzialmente imbevibile dal mio punto di vista. Io già non bevo la birra. Aspetta, però spieghiamo il tecnicismo del perché si chiama sommergibile. Perché lo sciottino affonda all'interno del boccale di birra, perché i pesi specifici diversi delle due sostanze permettono questo evento. Science, bitch. Perché lo sciottino, il bicchierino di sciottino viene messo capovolto nel boccale. No, non necessario. Sì. Io l'ho bevuto così, cioè, no, perché poi dopo praticamente la miscelazione arriva dopo, no, però vabbè, poi forse sono tecniche diverse. Comunque, insomma, è come dici tu, poi per esempio mi è capitato di bere un sommergibile che era con la Tennent's, quindi già con la doppio malto e lo sciottino di whisky. E vi assicuro che lo schiaffetto si sente. Pare. No, io la prima volta che l'ho visto è stato durante un weekend per la serie, diciamo i cazzi miei, tanto ormai mia madre li sa, a Berlino con un amico andammo a sentire un concerto dei Rammstein. Grande. Scoprendo tra l'altro, sì, cioè. Sì, no, la cosa tranquilla. Tra l'altro abbiamo scoperto, poi questa cosa me l'ha confermata un amico che fa avanti e dietro alla Germania perché fa il lettore d'italiano all'università, che in pratica dell'epoca in cui siamo andati, parliamo dei primi anni 2000 circa, noi siamo, io e questo mio amico siamo rimasti molto stupiti dal fatto che il locale dove siamo andati a sentire i Rammstein sostanzialmente sembrava un sex club, cioè c'era gente vestita di cuoio che si faceva prendere a cinghiate. La cosa, insomma, ci aveva divertito, abbiamo fatto anche delle foto che mia madre ha fatto sparire tranquillamente, di quelle stampate, perché all'epoca le digitali non esistevano. Io, abbastanza colpito da questa cosa, la racconto a Vincenzo, sapendo che faceva avanti e dietro alla Germania, e lui candidamente mi ha risposto: guarda che a Berlino in quegli anni anche il bar sotto casa, lo Starbucks dove andavi a prendere il caffè, era così. Poi col tempo le cose sono un po' cambiate, però in genere i tedeschi in quegli anni si sono divertiti in quella maniera. Ed è stato là che ho visto il primo sommergibile della mia vita, dicendo: solo un tedesco si potrebbe bere una roba del genere. Invece, come lo chiamavano? U-Boat? No, non me lo ricordo. Sì, però no, guarda, non voglio dire una cazzata, penso che fosse proprio U-Boat. Guarda, io vi dico che la cosa più schifosa, però, in termini di alcol, che ho visto a fare dai tedeschi è stata quando sono stato a momento di panico. Aspetta un attimo, forse no, non ero da... Ho un problema, non mi ricordo, questo la dice lunga sul mio tasso alcolico, non mi ricordo se il racconto che sto per fare si collega ad Amburgo o a Vienna. Fatto sta che c'era questo enorme, chiamiamolo pub, dove siamo andati a cena con tanti amici, ero per un evento legato ad Ingress, quindi eravamo centinaia di persone, ed era uno di questi locali enormi dove c'erano tante tavolate grandi da 20, 30, 40 persone l'una, e i camerieri portavano con delle rastrelliere che sembrava un caricatore di una pistola a tamburo da 6, praticamente delle birre 02, che quando tu ordinavi ti portavano il bicchierino di 02 secco, e c'erano queste cartucciere che arrivavano con i bicchieri pieni, scaricavano sui tavoli e ricaricavano i bicchieri sporchi, vuoti, e li portavano via. Beh, c'era un cameriere che ogni singolo bicchiere che trovava su un tavolo, prima di rimetterlo nella cartucciera a portarlo via, qualunque cosa ci fosse rimasto dentro, lui se la finiva. Un dito di birra, mezzo dito di saliva, un mozzicone di sigaretta, lui controllava sommariamente se era all'occhio suo era bevibile, se lo tirava giù e metteva via, se lo tirava giù e metteva via. Ma sistematicamente, non l'ha fatto una o due volte, in 2 ore e mezza che siamo stati lì non ha mai smesso di farlo. Altè, posso farti una domanda? Hai detto evento di Ingress? Sì. Quindi pro capite quanti power bank c'erano a persona? Io ne avevo 2. No, uno da 20 e uno da 15 ampere. Così uno lo mangia. Esatto, così uno me lo mangia. Esatto. Però ragazzi, fatemi leggere un po', perché abbiamo intanto saluto anche Marble Madness che ci ha raggiunto in chat. Visto che abbiamo lanciato la domanda, sono arrivate i primi feedback dalla chat. Per esempio, Cuciniere ci dice che la bevanda che lui è più forte, più particolare, lui abbia bevuto è il Filoferro. Quindi il Filoferro, il mirto bianco o il mirto rosso? Mi sbaglio sempre. No, non credo. Non credo che sia mirto, è solo morte. Probabilmente. No, ragazzi, in realtà, aspetta, Filoferro. Cerchiamo su Google. Sì, esatto. Ammesso che funzioni, che oggi è una giornata. L'acquavite di Sardegna, quindi dovrebbe quello bianco. Praticamente, vabbè, è una grappa fondamentalmente. È acqua morte, perché acqua vita. Anche, mentre invece Peppe Rizzard ci dice: alcol distillato da salcazzo cosa, somministrato a 2 conoscenti russi di un mio conoscente ucraino. Mezzo sorso e mi si sono staccate le otturazioni. Ecco, noi di questo vogliamo parlare, di questo ci dovete raccontare, non la bevanda passata, perdonami, cuciniere, non per sminuirti, però banale, il Filoferro sono capaci tutti, ecco. No, scherzi a parte, però insomma qualcosa di più che in qualche modo sia più drastico, qualcosa di più borderline, qualcosa di più pericoloso, qualcosa che insomma 2 ottani il più grog del super. 2 ottani più della super, l'assenzio. Esatto, il grog per esempio. L'assenzio a me, quello fatto veramente veramente come si deve, piacerebbe berlo, ma credo che, tra l'altro avevo un collega di un lavoro che si faceva credo spedire, credo sia illegale, sì, è illegale, no, te lo confermo, Però per esempio un ex collega si faceva mandare dal Canada tutti gli ingredienti e se lo distillava a casa. E quindi ho avuto modo una volta di berlo, è una potenza atomica. Poi L'hai bevuto o hai preso quello che mettono sulla zolletta di zucchero a gocce? Quelli più commerciali in quella modalità li ho bevuti tante volte, però appunto sempre quelli legali, non quelli fatti artigianalmente. Quello che ho bevuto artigianalmente è stato fatto appunto dal collega che ha portato in ufficio uno sciottino proprio, ce lo siamo diviso in 3-4 per assaggiarlo, era potentissimo, era qualcosa di... Immagino abbiate lavorato come... Ma guarda, io ho fatto delle sessioni di configurazioni server da ubriaco, che da sobrio non mi sono mai venute così bene. Una volta mi ricordo, sarà stato i primissimi 2000, avevamo preso un server in remoto in America, dovevo configurarci una cosa come 200-220 virtual host su Apache a mano. Ragazzi, vuoi da ubriaco, lo usi meglio che da sobrio, questa è una cosa che... Fai proprio a nastro. Porca miseria, ragazzi, che scherzi. Veramente in un'ora li ho fatti tutti. Il responsabile è arrivato, fa: ma quando cominci? Dico: no, veramente ho finito. Non è possibile. Se li è capati uno per uno, non ha saputo che dire. Però vabbè, 220 test uno alla volta. Vabbè, però ragazzi, senza manco Jenkins. No, vabbè, capirai. Poi all'epoca ero veramente alle primissime armi, non è che ci avessi tutte ste finezze, vuoi e via. E vabbè, però devo dire che insomma fu divertente, performance mai ripetuta. Comunque vabbè, ci dice Marble Madness: il limoncello illegale di mio nonno a 83 anni sbagliava le proporzioni con l'alcol. E quindi che vuol dire? Che ne metteva meno del necessario, perché il limoncello non è che ce n'ha poco. Ma anche questa cosa, zollette di zucchero macerate nel centerbe mi hanno bruciato l'interno guancia. Il centerbe non l'ho mai provato. Il centerbe credo che poco sotto il Genepi come gradazione alcolica è una delle cose più... poi ci sono centerbe e centerbe, ogni regione c'ha il suo, però ci sono alcuni... Sta a livello Napisal, se non sbaglio. Alcuni centerbe abruzzesi vanno oltre il 70-75%. Allora, io so, non l'ho vista, me l'hanno raccontata, di un napalm che si fa con l'arancia, ricordiamo, arancia e nafta e kerosene. Allora, mi hanno raccontato di questo ragazzo che faceva lo sbruffone, che già stava bello ubriaco, e praticamente il barista gli fece bere un cocktail di centerbe e un altro alcolico che non ricordo, forse whisky o qualche altra cosa, cioè una cosa imbevibile, che lui ha tirato giù, ma è praticamente caduto a terra, stecchito, proprio... Un coma etilico, praticamente 118 e via, una cosa del genere. Perché dice: ma questo me lo bevo io, dammi qualcosa di forte, guarda, è una cosa che ti stende. No, dammi, gli ha fatto sto cocktail che praticamente... mai provocare il barman. Adesso va in giro con le scimmie, insomma, vabbè. Immagino. A me, per i curiosi casi della vita, l'ultimo barman che ho frequentato nella mia vita prima di diventare astemio, adesso è il mio barista, nel senso che aveva il locale dove andavo a bere da ragazzo a Conversano, che è qui vicino Putignano, il paese del castello, e aveva un locale bellissimo, il Vizio del Conte, che banalmente era lo Ius Prime Noctis. Poi dopo un po' ha deciso di chiudere, è andato a fare un'esperienza all'estero. Qualche anno fa, due anni fa, sono tornato a vivere a Putignano, ho iniziato a fare colazione in un bar e ho scoperto che lui era il padrone, il barista di questo bar, e si è riconvertito dagli alcolici alla caffeina. E vabbè, d'altra parte un vizio ci vuole. Sempre droga, ecco. Esatto. Ragazzi, mi avete fatto venire, anzi Carmine mi ha fatto venire in mente, come tutte le volte che mi capita di passare sulla tangenziale di Bari e inevitabilmente non posso non fare la battuta all'omonima uscita: cozze conversano, ma che ci avranno da disse? Quante estati in quella zona, non hai l'idea. Immagino. Dato, scusate ragazzi, è bruttissimo, cioè, se volete venire in Puglia c'è, cioè, di meglio per andare al dove mare. Andavi a Cala Corvino a fare professione vacanze? Non so se lo sapete, professione vacanze, che è il posto dove venivano girate le scene, è un villaggio turistico ancora esistente, Cala Corvino. Tra l'altro è molto molto carino, molto accogliente, poi disarmo adesso, ma un bel posto. Però la spiaggia che si vedeva nelle varie puntate non era lì, era a Polignano a Mare, che è parecchio più lontano, e quindi tutti i turisti che sono andati sull'onda di Professione Vacanze a farsi il mare a Calacorvino si delusione. Sono sentiti vagamente truffati, perché sì, è una spiaggia, per carità, gestibile, carina, però la caletta di Polignano che si vedeva in Professione Vacanze certo. È un'altra cosa. Polignano vuoi mettere. Intanto DJ Hooker ci conferma che il centerbe originale sono 70 gradi, quindi mi ricordavo bene. Invece Peppe Rizzard dice: il limoncello con i limoni di produzione propria e l'alcol del supermercato, fermentazione con lievito fino a 90 gradi, vale? A volte ci accendevamo il barbecue. Sì, se sei vivo per raccontarlo, vale. A parte che io sono convinto che il vaccino Covid dei russi si chiama Sputnik perché dentro c'è la benzina dei razzi. E beh, probabile. Roba più o meno. Ma è tutt'uno, perché così loro ottimizzano i processi produttivi. Sì, sì. Nella raffineria fai il vaccino e il cherosene senza soluzione di continuità, no? Il colorato d'ammonio, per l'esattezza. Marco, perché tu non ci hai raccontato del tuo record etilico? Sei quello che sta facendo finta di niente. Perché io sono sempre andato di vino e alcol, non sono mai andato sul superalcol. Vino e alcol. Vino, no, scusa, pardon, e birra, non sono mai andato su alcol particolare. Giusto una volta ho preso una mezza pezza di mirto, ma niente di che. L'unica volta dove ho perso i sensi è base di vino di bassa lega al compleanno, al matrimonio di Pizzi, quindi. Ah beh, hai festeggiato ubriacandoti. Ovviamente, certo. Vabbè, se non in quel momento, quando sei diventato Marco il molesto. Molesto, però il giorno dopo mi salutavano tutti, mi chiamavano: ah, ciao Marco, come stai? Io non li conoscevo, ovviamente. vedi, esattamente la tesi che dicevo io. Uno i ricordi o li perde o se li inventa, ma la certezza della realtà non la saprei mai. Chi lo sa, Carmine, se tu hai parlato con Giovanni Lindo Ferretti o se in realtà era Enzo Biagi, che ne sai? No, c'ho le foto, sì. Ma io l'unico ricordo che ho era che era tremendamente magro e che me lo ricordavo più alto di me, cosa che, insomma, mi pare abbastanza evidente. No, perché però forse tu stavi in ginocchio in quel momento. No, eravamo seduti tutti e due. Ah, okay. Mi ricordo solo questa roba. Ma tu sulle sue ginocchia o viceversa? No. Ok. Va bene, insomma, dai, è andato tutto bene, siamo qui a raccontarlo, dico sempre, quindi voglio dire. Sì, no, avanti, però poi ci farò un poster con quella Polaroid, sì. Potrebbe essere una bella cosa, insomma. Comunque, ragazzi, insomma, dai, abbiamo fatto la nostra prima mezz'ora, ma la mia testa è sempre a Night City, ragazzi, è sempre. Ma tu ci hai giocato, Marco? No. Perché non ho il computer e perché non ho la linea internet, per cui, cioè. Beh, ma prendilo per PlayStation 4, ti pare? Mo lo pecceranno. Ah, già, è vero. Mi dicono che fra un po' abbasserà di prezzo. A parte il fatto che lo sta restituendo tanta di quella gente che secondo me. Sì, poi... detto, però su questo sono stati detto: guarda, noi ci abbiamo messo di tutti, forse ci prometteremo di fare la pace e tutto, però nel frattempo siamo visti soddisfatti e restituiti, almeno dal punto di vista comunicativo, cioè non è che cercano di arrampicarsi sugli specchi, ha detto: abbiamo fatto la cazzata, fratelli, cerchiamo di metterci una pezza, però nel frattempo se volete i soldi, se vi fanno problemi, contattateci direttamente che ci mandiamo i nostri sì, gli avvocati della corporazione, della Rasaka, sì, della Rasaka Corporation, esatto. Senti, ma tu hai citato Fratellini, ma se sa qualcosa di Fratellini? Ah, no, perché ragazzi è sparito nel nulla. Com'è il suo nome? Il suo nome da Fratellini. 1727 World Star. Si chiama proprio 17 di nome e 27 altro. Ma ragazzi, anzi, io non so se lascerei Algero Comandina, cose del genere, siamo. Ma la cosa importante, Lasciarelli è stata informata? No, perché... facciamola adesso, non ce l'ha. Cioè, io me la vedo Lasciarelli che apre la trasmissione. Guardi, facciamo la musica di chi l'ha vista. Fate l'annuncio però della scomparsa. Io non lo guardo chi l'ha vista. Come si imposta l'annuncio? Ma la inventa, improvvisa, vai. Benvenuti a chi l'ha visto. Mi starei domandando. No, ragazzi, è resuscitato, fermi. Ah, è resuscitato. Hanno ritrovato. No, su Instagram ha postato un giorno fa scrivendo: sono tornato, ho piaciuto lo scherzetto, vi sono mancato. Ma vaffanculo, neanche la soddisfazione di piangerlo, no, di ricordarlo. Sì, sì, ma c'era nell'area. Si diceva probabilmente sarà una delle cazzate sue. Era scomparso con due carte di credito, una cosa del genere. Boh. E steroidi, steroidi, di cui steroidi anabolizzanti, di cui non perché sperava di farsi crescere il cervello? Non funziona così. No, no, quello ci vuole il brain, il fattore di crescita cerebrale che ha scoperto la compianta di Vitale Evi Montalcini, il mio gran fatto. Ma l'altro giorno mi è capitato di intravedere, ma tipo 3 minuti, poi ha cambiato canale, una fiction su Rita Levi Montalcini interpretata da Elena Sofia Ricci. Dico, vabbè, sì. vabbè. Comunque. Tristezza, guarda, vabbè. Giustamente non con gli steroidi, erano gli asteroidi, c'ha ragione Marble Madness. vabbè. E anche questo. Però secondo me un ragazzo così dotato come il nostro 1727, secondo me se vuole spaccare proprio, essere ricordato all'apice della sua carriera, deve fare come i vari Jim Morrison, come Kiefer Sutherland, come John Belushi, cioè, Non ha ancora 27 anni. Scusa, Kiefer Sutherland è morto? No, Kiefer, no. River, no scusate, River Phoenix. Phoenix, non so perché sono andato a Kiefer Sutherland, scusate. Perché? Comunque vuoi morire Kiefer Sutherland? No, non lo so, però no, anche perché ha ormai Snake ormai ha anche superato l'età giusta. Comunque guarda che il fatto che sia ancora troppo giovane mica è vero, all'età di morte di questi grandi artisti tra i 20 e i 30, appunto River Phoenix. Adesso vedo un attimo anche chi possiamo vedere, fatemi pensare. Intanto vediamo Jim Morrison, per esempio, a quanti anni è morto? Credo poco 27, più di 30. Sempre 26. Club dei 27. È giusto, è vero, il club dei 27. Il club dei 27. Se vuoi trovarne uno giovane cosa là? Mannaggia, oggi mi sfuggono i nomi, oggi hanno intanto saluto A9000 che ci ha raggiunto in chat. Anemia pure ho detto. Non ce la posso fare più, no, ma stasera, no, mi devo fare un hard reset un attimo, scusate. E poi sapete, oltre al club del 27, che sono queste povere persone, cioè artisti morti entro i 27 anni, anche il Morrison, club del 23, insomma. No, sapete, il di culo. Mi hai sentito parlare del club 33, che non ero così freddi, no, quello no, quello mio. È Banano 33. No, che l'età non è, no, niente di tutto questo, è una roba molto più soft. Quando in viaggio di nozze siamo stati a Disneyland ad Arnhem, mentre giravamo per la parte del parco dove viene riprodotta la Louisiana, c'era una porta che non sembrava con tanto finta. Di negri sui campi di cotone? Esatto, più o meno una roba del genere. C'era una porta che non sembrava finta, con il numero 33 in metallo davanti. Aspetta, pensato aspetta, fosse aspetta, una cosa aspetta, di scena, vabbè. È il numero che viene in la stanza 33, là, che cos'è? No. In pratica, sta cosa poi l'ho scoperta leggendo un libro sulla storia dei parchi, che si chiama Dietro le orecchie. No, non c'è in italiano, però poi magari ve lo linko, è divertentissimo. Dove vengono raccontate una serie di curiosità sui parchi Disney, ottenute leggendo i documenti delle stazioni degli sceriffi, della polizia, su denunce, gente che si è smarrita, casini nel parco. Però il Club dei 33 è un club interno a Disneyland, ce n'è una per ogni sede del parco. Dove hanno accesso soltanto 33 famiglie, questa cosa si tramanda di tipo di generazione in generazione, che hanno collaborato i loro antenati prima al finanziamento dei parchi e al lavoro di Walt Disney, poi oppure hanno avuto un ruolo all'interno della Disney Corporation. Ed è un club riservato dove c'è un ristorante interno, dove ci sono delle sale poste in alto sulle attrazioni, dove si può vedere il panorama non accessibili dal pubblico, ed è l'unico posto all'interno dei parchi Disneyland della Disneyland dove viene servito alcol. E poi, continuiamo a dire che Topolino non è massone, eh? Vabbè. No, ma non è una cosa segreta, si sa. Vabbè, anche la massoneria è così, segreta ad essere la... Anche la loggia, tutto sommato, alla fine. Esatto. E vabbè ragazzi, comunque, che dobbiamo fare? Tra l'altro Disney, ecco, saltiamo un po' all'argomento spettacolo e televisione eccetera, perché c'è stato l'Investor Day durante il quale Disney ha presentato i piani per il 2021 e fondamentalmente ci ricopriranno di serie di Star Wars e del mondo della Marvel. Ma non solo, anche che culo. Cioè, beh, oddio, cioè quando presenti, io per come la vedo io, quando presenti tipo 10 serie a tema Star Wars e quasi altrettante a tema Marvel, qualche crisi di creatività ce la devi avere. No, vabbè, ragazzi, però cioè, secondo me il problema di fondo di quell'annuncio è che sembra che siano tantissime serie lunghe, tipo Il Mandaloriano o Clone Wars per quelle animate. In realtà la maggior parte di quelle che hanno annunciato, tipo le avventure dei droidi, sono miniserie di pochi episodi, quella addirittura per bambini. E Ranger saranno spin-off di pochi episodi che serviranno poi a costruire il finale del Mandaloriano della terza stagione. Allora, intanto Ahsoka gli ho detto a sorella, una miniserie di 6 episodi, cioè è roba più piccola che si incastra. Ma peggio mi sento, però, scusa Carmine, perché vuol dire anche che la quantità di ore di spettacolo sarà tutto sommato limitata, ma alla fine quell'effetto monotematico io lo trovo, cioè un mostro sacro come la Disney, che ha tutto il potere che vuole e che ha dimostrato di avere la forza economica e tecnica per fare delle cose fatte molto bene anche in televisione, cavolo, spazia, inventa qualcosa di nuovo, cerca di acquisire anche i favori di un pubblico che magari se ne è anche un po' riempito le scatole. Tu dimmi l'ultima cosa originale, a parte Anna Montata e quelle altre puttane, dimmi le altre cose originali che per cui la Disney Anna Montata è quella con Rocco, no? Sì, esatto. No, per carità, ma io sto criticando proprio cioè la mancanza di novità. La marea, ragazzi, sta la Lega dei Principi Minori, cioè ce ne sono tanti, non stanno in target con noi, non li seguiamo, non li conosciamo, però di quei prodotti su Disney Channel, buonanima. Allora, io non voglio dire che devi fare come Netflix, che è l'esatto opposto, cioè fanno tantissima roba tutta mediamente di basso livello, però quantomeno spaziano da un genere all'altro. La cosa bella per me di Netflix è che qualunque gusto tu abbia, qualcosa che ti piace la trovi. Poi il Mare Magnum è merda, non dico che, però ogni tipo di spettatore può trovare nella lista sconfinata di titoli propri e di terza parte sempre qualcosa che gli piace, che giustifica pagare l'abbonamento tutti i mesi. Quando invece ti fossilizzi su soltanto su due franchise, tre, insomma, voglio escludere tutto il discorso dei prodotti, ovviamente per il target infantile, quello è tutto un canale, non ci riguarda come spettatori, ma anche non ci fosse non noterei la differenza, insomma. Però per noi spettatori, fruitori adulti di cinema, di serie televisiva, che ci piace, che ne so, le serie d'azione, le serie di fantascienza, le serie politiche, le serie horror, le serie di spionaggio, di intrigo, quelle legal drama, medical drama, qualunque genere, Disney non ti dà niente di tutto questo. Disney sugli ultimi generi che hai citato proprio non ha prodotti, ma non li ha mai avuti. Capito, ma ha acquisito tante di quelle realtà che deve solo cominciare a farlo, non è che ti devi omologare a te stesso per forza. Hai comprato tutta Fox, non mi dire che l'hai fatto per avere gli X-Men e basta, perché te meno. No, assolutamente. Anche i Simpson, l'obiettivo, sì. No, comunque adesso con l'inserimento di Star pare che comunque dovrebbe venire fuori la roba Fox, che non stiamo vedendo nella pagina principale di Disney Plus, quindi altra roba tipo la roba di Seth MacFarlane, quindi Griffin, American Dad, Orville, dovrebbe confluire tutta quanta là dentro. Vedremo poi. Vediamo. Insomma, ad oggi sono tutti disponibili su altre piattaforme, perché i Griffin, piuttosto che The Orville, piuttosto che tutte le serie di Seth MacFarlane, appunto, bene o male su altre piattaforme si trovano. Vediamo. Però, insomma, devo dire che aver scoperto che Disney Plus l'anno prossimo costerà un secco 30% in più, per carità, tante serie originali che nel primo anno si può dire che hanno lanciato soltanto due stagioni del Mandaloriano e poco altro, però insomma passare subito a 30 euro al a 30 euro all'anno in più, forse è una mossa che a qualcuno farà storcere il naso. Vediamo con l'inserimento di Stars, è la roba che hanno detto di volerci infilare dentro, è quella lì, quindi anche tutta la saga di Alien. Perché il catalogo vediamo. Fox era abbastanza ampio, quindi vediamo un po', dai. Ah, io capisco il fatto che loro vogliano tenere gli ambiti distinti, cioè tenere Disney Plus come roba teen, giovane, per appassionati hardcore di alcune IP, e poi Star per tutto il resto del catalogo immenso che c'hanno. Vediamo un po'. Comunque io mi riporterei ad una notizia di qualche giorno fa, di questo consiglio che ha dato un tizio, che il consigliere teoricamente di Bologna, che dice via, non so se era via Instagram o via Twitter, con un video: comprate dai leghisti. Quindi fare delle liste di amici mobilieri, avvocati, farmacisti leghisti, di comprare solo da loro, quindi smertare tutto il resto. Allora io ho provato a cercare questa notizia sia sull'Espresso della Repubblica, dove c'erano dei link praticamente cercando su Google, e mi dà pagina non trovata, contenuto non più disponibile. Io il video l'ho visto, è testimone. È arrivata la finanza, ve lo dico. È arrivata. No, tra l'altro c'è su Twitter, c'è, io l'ho trovata, ritwittata probabilmente da un tale che possiamo pubblicizzare, che si chiama Giorgio Spada. Bologna, spendete leghista, consigliere fra lista delle imprese salviniane in provincia, guida della Repubblica, però sulla Repubblica non c'è più, quindi non lo so, quindi è stato spostato, vediamo se funziona, No, infatti pagina non trovata, è stato rimosso, quindi attenzione, ma è stata rimossa proprio la notizia. Io non credo di non aver capito, non avendola seguita, ammetto che stavo cercando anche un'altra notizia nel frattempo, quindi mi sono perso completamente. Cioè, la notizia del consigliere leghista che faceva fare le liste per comprare e favorire, quindi economicamente, soltanto i leghisti, quindi le imprese leghiste, mobilieri, farmacisti. Ok, e... ok. Abbiamo parlato la settimana scorsa, mi sa, però. No, ne abbiamo parlato nelle nostre chat private. Il problema è che adesso, se vai a cercare la notizia, le pagine sono state tutte rimosse sulle Repubbliche e sull'Espresso, e non c'è traccia su internet. Però il video c'è, esiste, perché a parte esserci su Twitter l'anteprima, anche se poi ti colleghi sulla Repubblica, ovviamente il servizio è stato rimosso, l'articolo è stato rimosso. E poi mi dicono gli altri nostri due colleghi che il video, perlomeno Francesco, mi sembra che l'ha visto. Carmine, sì, no, sono testimone che l'ho visto. Non si trova più. Ah, non si trova più neanche il consigliere. No, quello probabilmente c'è. Però strano. Alessandro Bottoni a Twitter, vediamo su questo, se questa parte se. No, è sempre, fa sempre fede al link di Repubblica che dice: ops, pagina non trovata. Dovremmo cercarlo su Wayback Machine. Comunque, evidentemente l'ufficio legale della Lega, scusate il gioco di parole, chi per loro sarà riuscito a far rimuovere il contenuto. Anche per l'Espresso, sì. Vabbè, l'Espresso Repubblica è quello, è stesso gruppo editoriale, sempre Jedi, sì. Che adesso, ricordiamoci, che è buoni, leggermente però, della famiglia Jedi. Agnelli, esatto. Sono sempre più sit. Oh no, invece oggi stavo leggendo uno scambio di tweet, perché c'è stata una butad che ha coinvolto Roberto Burioni, il professor Burioni, che io continuo a dire, se passasse meno tempo sui social e in televisione sarebbe meglio, perché per come la vedo io perde tantissima della sua credibilità facendo quello che fa, però contento lui. Oggi si è infilato in uno scambio di tweet che parlavano relazionando il vaccino al calcio. Un utente ha scritto: non seguo il calcio, ma per il vaccino, per i miei, io posso aspettare, io farei il tifo per qualsiasi squadra. E a questa affermazione non si sa bene perché, per come, Burioni ha risposto cancellando dopo un po' il tweet: no, meglio Covid-19 della AS Roma. È una bella laziale, Burioni. Ho capito, lì è partita una raffica di Tizi sarebbe stato d'accordo. Però giustamente poi alla fine, insomma, ha dovuto cancellare la cosa, che ovviamente c'è chi gli ha dato addosso rispondendogli, per esempio: vediamo quanto ci metterà a cancellare sta porcata, schifoso. Ovviamente c'è chi l'ha presa sul personale, e poi ha dovuto dire: datevi una calmata e una battuta, e poi ha cancellato il tweet. Però insomma, continua a dire che proprio perché sei in una certa posizione e cerchi sempre di elevarti dallo status di starlet dei social piuttosto per rivendicare la tua autorevolezza professionale, secondo me certe butate, se avesse detto meglio Covid della Lazio, meglio Covid della Juve, mi avrebbe dato fastidio lo stesso modo. Ci tengo a puntualizzare che non è un fatto perché ha nominato la Roma, però secondo me insomma si delegittima da solo tutte le volte che fa questo tipo di uscite, che secondo me sono più per darsi una sorta di visibilità aggiuntiva piuttosto che vabbè, utile. Ma dai, ma sarà stata colpa di qualcuno che ha preso il cellulare e ha scritto sarà stata la social media manager di coso di della Meloni, di Toti della anche della Meloni. Sì, dice che quella che diceva che il reato di tortura sfavorisce il lavoro della polizia. Sì, sì, bella. Esatto. È stato subito scomparso. Fatto sparire, sì, esatto. Che poi Burioni è di Pesaro, lavora alla Fondazione San Raffaele, ma che gli frega della Lazio, della Roma? No, di Pesaro, lui? Di un paesino sperduto in provincia di Pesaro di tipo 90 anime, che tipo è rimasto immune al Covid per non so quanto tempo, poi è arrivato lui a salutarlo e forse gliel'ha portato. Ah, può darsi. A proposito, ragazzi, ma questo Covid, che dite? Qua si continua a dire fase 3, cioè terza ondata, ma qua non finisce manco la seconda. Passeremo dalla seconda alla terza. Guardate che cioè il trucco per non far finire, cioè per non entrare nella terza e non far finire la seconda. Ma guarda che ci si sono messi di buon andazzo per non farla finire. Ragazzi, la seconda. Questi numeri sono socialmente accettabili. Cioè, per il governo questo tasso di infezione, di mortalità va bene. Cioè, zona gialla, si può fare. Va bene, cioè, è accettabile. Ma sono molti più di quelli per cui si è fatto il lockdown a marzo, però io non capisco perché. Ma è la stessa cosa. Oggi che... è accettato. No, in realtà come numero di morti no, siamo più bassi di parecchio. Baschi. Ma io mi ricordo che l'altro giorno c'è stato il record. Da inizio pandemia. No, forse la seconda ondata, però siamo arrivati tranquillamente a oltre 1200 in un giorno durante il casino grosso di marzo. Sì. 36.000 sono morti, mi sembra, fino a prima dell'estate. Comunque, in tutto questo, ragazzi, potremmo in diretta assistere alla proclamazione di Biden come presidente. In questo momento sono in corso i voti del collegio elettorale. Sì, dei grandi elettori. Un redneck armato di stanno facendo via Zoom, ognuno dal proprio stato. Non vi agitate, però. Per esempio, molti degli stati, quelli considerati battleground, tipo l'Arizona, stanno tenendo la riunione in un posto non conosciuto pubblicamente, perché appunto avevano paura di qualche gesto. Ma Trump ha fomentato talmente tanto odio che il rischio è concreto, e quindi tutto sommato fanno bene a prendere tutte le precauzioni del caso. Però la cosa bella è stata che anche la Corte Suprema, che sembrava l'unico baluardo a cui in qualche modo Trump potesse disperatamente attaccarsi, proprio l'ha pisciato in due secondi, però proprio non c'è stato verso. Infatti, però la gente però si è chiesta: ma come fa a finanziarsi anche stavolta le spese legali? Il fatto è che non solo le spese legali, ma tutto. Cioè, ha chiesto una donazione sempre col solito messaggione abbastanza grande: tu sei patriota, devi donare qui per le nostre spese. Nel frattempo una cosa scritta e non scritta, cioè che praticamente tutta una parte di questi soldi è stata deviata nelle sue casse personali innanzitutto per rifinanziarsi dai debiti della campagna elettorale, perché si è indebitato anche dalla campagna elettorale, più altre cosine qua e là. Cioè, davvero cornute e mazziate proprio, ma loro contenti di essere cornuti e mazziate, quindi davvero le spese legali è la punta della cacca quando fai la cacca, il cane che è proprio con quella punta bella attorcigliata, quella punta finale è tipo il meme del male quanto la cacca. però quella là sono solo le spese, il resto infatti lui sperava una pacificazione, cioè che venisse perdonato per... Ma secondo una mostra, una volta avevo letto un articolo, mi pare, di Open, che si suggeriva che in realtà che non sarebbe stato così strano, o meglio che sarebbe stata comunque una mossa non stupida da parte di Biden, cioè perdonarlo per riappacificarsi buona parte, visto che ha detto che vuole essere di tutti, cioè il per non inimicarsi eccessivamente tutta la gente che ora è fomentata e vuole far esplodere qualche bomba qua e là. Io non lo so, io sul dubbio, io mi farei qualche dubbio morale. Non subito, con calma. No, no, con calma. un paio d'anni. Magari dopo che l'hanno condannato per qualcosa, giusto perché so. Però nel frattempo sono passati 2 anni, siamo già a midterm, la gente avrà opportunità di fare quasi, perché è questa la cosa che si punterà adesso, a immolarsi come l'eroe che gli è stato sottratta, cioè la narrativa che spingerà adesso, che l'eroe a cui gli è stata sottratta legittimamente le elezioni, e che secondo me lui non toglierà mai, e tipo aggiornerà il 20 gennaio, quando è il 20 gennaio, sì, io aggiornerà il... E aggiornerei il profilo Twitter come 51esimo presidente del... No, ora quanti piste. Presidenti sono? È il... Lui è il 46esimo. No, lui è il 45esimo. No, Biden è il 45esimo bis. Attenzione, perché il 47esimo è il 46esimo è Trump. Sì, sì, lui secondo me il 20 gennaio lui aggiornerà il profilo con 47esimo, vabbè. The only real president of the Stati Uniti. Comunque Twitter ha detto che lui il 20 gennaio gli stacca l'account POTUS, che è quello ufficiale per il presidente degli Stati Uniti, e da quel momento comincia a trattare il suo account personale come un account di un utente normale. E che vuol dire? Quindi, che lo banna il giorno stesso. Secondo me sta, cioè, c'è il team di Twitter che sta lì, che conta i minuti. Comunque ragazzi, se vi capita, perché in realtà credo si troverà abbastanza facilmente in formato ebook a un prezzo accessibile, ma comunque è andato nella grande distribuzione. Se vi capita, c'è il libro nuovo di Obama che si chiama Una terra promessa, sarà diviso in 2 parti, è uscita la prima, è molto bello e soprattutto aiuta a capire come funzionano determinati processi elettorali e politici degli Stati Uniti. E quando mi è capitato di leggerlo, ero lì che dicevo, cioè, sono scemi oppure la cosa funziona talmente bene che non la vogliono cambiare? Propendo per la prima. Però, cioè, ci sono dei meccanismi che sono per noi europei, non italiani, assolutamente inconcepibili. Cioè, il fatto che comunque lì la maggioranza e l'opposizione all'interno di qualsiasi Parlamento locale o nazionale vota sempre unita e compatta, non c'è possibilità che qualcuno voti contro la direttiva di partito, pur non esistendo il vincolo di mandato. Ci sono i whip che cercano... Poi c'è la parte in cui spiega la sua prima campagna elettorale, quella che poi l'ha portato alla presidenza, quella delle primarie, delle robe assurde, cioè come funziona, come costruiscono il consenso, il fatto che devi partire per forza da un dato stato perché quello fa la cartina da tornasole per tutti gli altri, perché pare che se vinci alcuni stati chiave gli altri vanno a strascico. Se vi capita, si legge facilmente, non è molto lungo e io ve lo consiglio, serve a capire alcune dinamiche sulla narrativa e sulla cronaca che stiamo vedendo dalle elezioni americane ad oggi. Tra l'altro, grazie del consiglio. Ragazzi, tra l'altro oggi leggevamo anche di questo piccolo gaffe di Biden, che voglio dire, se il buongiorno si vede dal mattino, il povero Biden, leggendo un comunicato, ha letto anche l'end of line, quindi insomma, come dire, è andato un po' in berserk narrativa, ha letto il comunicato e non si è reso conto che era andato oltre quello che avrebbe chiuse dovuto. Virgolette. Vabbè, credo che ci abbia anche un livello di stress per noi. Written and directed by D.B. Wilde. Vabbè ragazzi, tra l'altro, visto che parliamo di eminenze, no? Io non so se ve la sentite, se il buon se il nostro lobby frontali è pronto, consentitemi di introdurre il tema. E ed è il momento del nostro unico e solo imperatore De Luca. Come ci ha deliziato oggi il nostro imperatore? Vabbè, diciamo che dalla diretta di notevole, vabbè, ha detto solo che praticamente ha ribadito di nuovo questo fatto che qui c'è il presidente del consiglio che nell'attuale governo dice che sono i migliori ministri del mondo. Cioè, prendiamo ad esempio il ministro della pubblica istruzione, ora ovviamente ha preso di esempio lei, che ci siamo liberati dopo decenni di poveri uomini come Francesco Scodesantis, Benedetto Croce, Guido Di Ruggero, Salvatore Valitutti, poveracci che hanno retto il ministero. Finalmente oggi è arrivata la luce e il ministro Azzolina. Il mondo è come uno se lo fa in testa. È stato stupendo. Vabbè, poi ha ripreso comunque di nuovo a parlare dell'epidemia della Campania, quindi interventi più rigorosi. Ha detto categoricamente: quest'anno il Natale e Capodanno non esistono, cioè momenti di raccoglimento sì, però non fate feste normali eccetera, perché sennò a gennaio sarà un'ecatombe. Se adesso apriamo un'ecatombe, se adesso dillo bene, esatto, case, enfatizza ecatombe. Se adesso apriamo praticamente le case, a gennaio apriremo le terapie intensive e poi i cimiteri. L'ha detto proprio così, categoricamente. Chiuderemo le bare. A bare. Poi ha detto comunque, ha fatto i numeri, ha detto che comunque ribadisce, comunque abbiamo a livello di ricovero in terapia intensiva tra i più bassi d'Italia, a differenza, cioè addirittura un settimo, un decimo, sono 140 rispetto a 800-900 che sono per esempio in Lombardia, che è diventata così d'amblè zona gialla con un livello di contagio e una situazione molto peggiore di quella che quella del centro. Poi di nuovo questo grande progetto dei fondi europei, in cui però si rischia, dovranno sentirsi le regioni per accordarsi, comunque si rischia che daranno comunque più fondi alle regioni del nord rispetto a quelle del sud, perché buona parte di questi fondi saranno per risanare risanare la questione nord-sud, cioè una cosa che ci portiamo dal 1860. Se guarda, questa prima. È la volta buona, dai. Questa è la volta buona, cioè, no? Infatti. Quindi poi ha ribadito che comunque qui in Campania, a parte Covid, passerà, quindi nuovi progetti, gli ospedali nuovi. Il Covid passerà, ma lui no. Sì. 47 milioni per la disabilità, 259 autobus che si aggiungeranno a 350 già consegnate, e ne compreranno altri 500 nel corso dell'anno prossimo, mentre diciamo la scusa, ma lui a che titolo parla? Cioè, queste, Campana, quali non sono? Ha comprato nessuno. Ma sì. di quali linee di autobus? Cioè, sono discorsi che questi sembrano più da amministrazione comunale che da amministrazione regionale. Di che autolinee parla? Mica c'hanno il Cotral come nel Lazio, boh, non dice. Ma una volta c'era stato un tentativo di farla unico. Mi ricordo quando andavo all'università che compravo l'unico, che poi è fallito, che c'è un biglietto unico per tutti i servizi. No, unico Campania c'è ancora, questo almeno fino all'ultimo, fino a luglio che frequentavo abitualmente la Campania c'è ancora. Ah, boh. Quindi dotazione di moto anche per la municipale, pista ciclabile sulla Perivesuviana. Anche là, la municipale di competenza del singolo comune. Non capisco lui si lancia in tutti questi programmi da imperatore. Che te devo dire? Sì, infatti. Poi attività online del Teatro San Carlo, Teatro Verdi, il Teatro Festival, sostegno all'arte presepiale e progetti esecutivi per 10 nuovi ospedali. Poi di nuovo appello ai cittadini. Cioè, diciamo, avremo occasione più avanti, ma oggi no. Cerchiamo di avere le forze per resistere. Ma cosa? Occasione più avanti, cosa? Per fare cosa? No, per unirci, per rivederci, per festeggiare, per altro. Però dice, oggi, ribadisco, questo non sono feste da festeggiare quest'anno. Stato va a casa. Cosa che però in tutta Italia non è stato così. Cioè, è inutile dire, far vedere solo le telecamere via Toledo che la gente in base. È stato dovunque, c'è stata gente riversata questo fine settimana. Vabbè, ma ovunque a livello nazionale, cioè da dire, non è stato un problema solo campano. Poi comunque si è ripresentato, ormai è diventato ospite fisso anche lui, quasi da che tempo che fa da Fazio. Ha ribadito un po' le stesse cose, ha detto pure il presidente, di nuovo ha detto il presidente, ha detto che ha migliori ministri del mondo. con un atto di fino umorismo. Io credo che abbiamo 3-4 ministri di grande valore, il resto mi pare arte povera. Arte povera. Vabbè, comunque vuol dire l'arte povera è anche... Non è, cioè, non è un dispregiativo, quindi il concetto che ha voluto parafrasare è relativo. L'arte povera è un'arte magari priva di dettagli significativi, ma di sostanza. E quindi se uno mi desse dell'arte povera, credo che mi starebbe facendo tutto sommato un complimento, e non credo che quella fosse l'intenzione di De Luca. No, assolutamente no. Poi comunque ha detto che è il terrore che a ridosso a Natale ci sia l'assalto ai treni, come è successo un'altra volta a marzo, in cui forse solo una persona ha fatto il viaggio inverso. Un a caso che non citeremo. Sì. Con migliaia di persone che portano in contagio da altre regioni. Infatti lui una cosa che vuole fare, vorrei mettere i filtri dovunque, agli aeroporti, alle stazioni, per non far entrare gente, oppure comunque per badare che altre che ci sia molto limitato il traffico di gente proveniente da altre regioni, soprattutto dal nord. Comunque lui dice ce l'ha accanita, cioè di nuovo il dilemma, com'era la questione nord-sud, ce l'ha molta viva in sé. E poi dice che conclude che avremo il 20% di responsabili che faranno un cenone da 30 persone, altra gente che farà veglione in ville e locali privati. La situazione sarà maledettamente complicata, dove dobbiamo evitare di prendere decisioni di rilassamento. Il rilassamento, se il governo decide di lasciare libera la mobilità per i piccoli comuni, significa che dovremo aprire una sezione di psichiatria democratica a Palazzo Chigi. Vabbè, ho capito. Però anche là, secondo me, democratica è meraviglioso. Il concetto di la miopia di certe misure, perché se stai in una città grande come Roma, tu puoi arrivare al confine della città e hai incontrato potenzialmente 3 milioni di persone senza essere intorto da un punto di vista legale. Se abiti in un comune di 1000 anime e vuoi andare in quello accanto perché nel tuo non c'è il panettiere, sei fottuto. A me non pare assolutamente normale questa cosa. Cioè, il principio per cui si deve mettere un limite deve essere equo, non deve essere penalizzante di alcuni rispetto ad altri. Se hai la fortuna di vivere a Milano o a Roma o a Napoli lo percepisci in un modo, se invece vivi in un piccolo comune hai un disagio amplificato 10 volte. Ed è un paradosso, perché il pericolo non è nel comune di 1000 anime, ma è nella città di 1 milione di abitanti. Quindi secondo me manca completamente la lungimiranza in queste misure. Comunque vabbè, l'angolino De Luca anche per oggi si conclude, ma sono convinto che la prossima settimana ne vedremo delle belle, perché ci avviciniamo drammaticamente al Natale. E quindi, tra l'altro, oggi cominciavano a dire in maniera un po' più convinta che forse servono delle misure veramente più rigide, più drastiche, perché queste hanno dovuto cominciare a prendere atto un po' tutti che queste mezze misure non sono, ahimè, serviti a un emerito cazzo, insomma. No half measures. Dice Peppe, il panettiere, accattati farina e lievito e basta. E vabbè, è quello, capito, che sto facendo io. Infatti, ma due paroline sul cashback di Stato e sulla lotteria degli scontrini, no? La voglio da. Ma io sinceramente non mi ci voglio neanche sprecare. Mi sono fatto un conto mentale di quelli che sono i soldi che potrei spendere da qui al Natale. Ho detto, ma io mi posso sbattere tutta questa cosa? 1500 euro per... No, vabbè. No, diciamo che allora fino a un massimo di 1500 euro si potrebbe arrivare a 150 di cashback in proporzione, perché si parla del 10% della somma spesa. Io mi sono fatto dei conti e ho detto vabbè, ma io mi devo fare tutto questo sbattimento da qua a Natale, quanto mai potrò spendere? 200 euro, 300 euro? Quindi io per 20-30 euro mi devo sbattere, ma chi vi si incura? Scusate. Sì, ciò non to- sì, alla fine questa era stata più una manovra per dire cacchio, pagate in modo tracciabile, abbandonate sti contanti di merda che trasmettono pure il Covid. Quindi un pochino per il nero, trasmettono il nero. Sì, quindi comunque è stata comunque una manovra, comunque secondo me dobbiamo vedere, secondo me ha un potenziale successo, a parte che attualmente in poche settimane mi sa che ha fatto se non i stessi quasi gli stessi download, ma molto più dall'onda della povera Immuni, che oramai è abbandonata al suo triste destino lì nell'App Store. Ma non riescono a tracciarla neanche più lei, guarda. Ah, guarda, a parte il fatto che a un certo punto il tracciamento è saltato talmente tanto perché il numero di tamponi e di cose da fare era talmente alto che se ci fosse stato un ulteriore carico dovuto anche a un utilizzo raziocinante di immuni sarebbero morti tutti di burocrazia. Però guarda, comunque, invece pubblicità di immuni c'è ancora, eh? Sì, sì, per carità, per carità. Però, raga, ricordatevi di noi. Sì, sì. Però ti dico la verità, per me il cashback di Stato ben venga se riesce a ridurre il sommerso, nel senso che se riesce a inculcare nell'italiano medio l'uso della carta di credito e del bancomat in sostituzione del contante, quindi mette in condizione tanti esercenti che oggi non lo fanno di fare lo scontrino. Francamente ne sono abbastanza contento. Sabato sono andato per la terza volta a comprare la pizza dalla nuova pizzeria di fronte casa e per la terza volta in un mese non mi ha fatto lo scontrino. Ora, io sono uno che fondamentalmente vuole stare in santa pace, non va a farlo notare, però come in questo periodo mi dà molto più fastidio del normale, anche perché ti rendi conto che ti stanno, come dire, proprio prendendo in giro due volte facendo così, perché intanto tu hai pagato un 20% in più rispetto hai dato all'esercente un 20% che non gli spetta, perché se ho comprato 20 euro di pizza è giusto che 4 euro vadano allo Stato, questo dice la regola. Poi possiamo parlare sull'equità forse sulla pizza sarà il 10% probabilmente, però sui generi alimentari più comunque sia quel 10% la regola dice che deve andare allo Stato, è un 10% che io pago dal totale perché vado allo Stato e perché poi mi venga restituito in servizi. Il fatto che l'esercente A, B, C continui a non voler fare lo scontrino, a me questa cosa veramente manda in bestia, anche perché non penso che quel 10% poi gli svolta la vita, ecco. Però vabbè, che ti devo dire. Detto questo, il cashback di Stato per me spingere e da abbracciare se ci aiuterà a ridurre questo tipo di sommerso. Siccome vedo tanti commercianti oggi, venerdì, passando davanti al mercato rionale, mi sono reso conto di un banconista di una delle bancarelle che faceva una specie di comizio, chiamiamolo comizio, con un paio di clienti, cercando di difendere il fatto che, cercando di insinuare il fatto che il cashback di Stato, lotterie eccetera fossero delle cazzate, che lo Stato così prendeva tutti per il culo, dove tutti non eravamo lui esercente ma eravamo noi acquirenti, perché era una buffonata, non serve a niente di qua e di là, e tutto questo per giustificare il fatto che lui non c'è il posto, esatto, che è una cosa, il registratore di cassa ce lo deve avere per forza, ma sicuramente pieno di polvere, e continuano a non avere il posto. Tra l'altro un'altra cosa successa secondo me positiva per lo stimolare l'utilizzo delle carte di credito è che praticamente, non mi ricordo se solo Visa, comunque c'è stato un accordo per il quale in via sperimentale gli emettitori più importanti di carte di credito consentiranno di azzerare le commissioni per 2 anni per spese, mi pare, fino a 10 euro. Questo è positivo perché significa che così i bar, tutte quelle piccole attività, esatto, e non ti rompono le palle, ma non mi puoi cavare il caffè con la carta. Cerchiamo di rompere anche questo tabù. Nel resto del mondo si fa. Non voglio andare in giro con i contanti, anche più sicuro, mi sento meno a rischio, visto che al giorno d'oggi con la fame nera che c'è magari ti accoltellano per 5 euro che avevi in tasca. Usiamo tutti sta cacchio di carta e vedrai che si accoltelleranno perché non c'è manco 5 euro in tasca, quindi per sfregio, e poi ti fanno la cacca sul materasso. Lo so, ragazzi, che dobbiamo fare, però voglio dire, qualcosa doveva pure succedere. Vabbè, comunque ragazzi, la serata secondo me volge al termine, anche perché devo prendere l'autobus per Night City tra un po', quindi non mi posso trattenere. Ma oltre, non passano gli autobus a Night City, e ancora non ci sono no, gli autobus non li ho visti passare. In GTA 5 c'erano, li potevi anche rubare. Oddio, più che gli autobus si cambiano, fa sempre questo confronto, perché comunque la potenza di fuoco che ha Rockstar non ce l'ha, non c'è la CD Projekt, no, quindi soprattutto ora che stanno cominciando a risarcire un sacco di gente, comunque sì. Sì. Ne vedremo delle belle. No, però ragazzi, vabbè, abbiamo promesso che ne parliamo poco per non tediare, non annoiare, però diciamo un piccolo input di quell'argomento lì io ce lo metto. E vabbè, niente, io sentirei anche solo la sigla per intero, perché veramente, veramente bello. Ma colonna sonora, ce ne sono, se vai su Spotify, ce ne sono una per ogni episodio, praticamente. Goranson le ha fatte. Mi ricordo che l'anno scorso me le sparai tutte, tipo, e mo non so se già sono disponibili quelle della seconda stagione, ma le renderà a breve. È bellissima, bellissima, bellissima. Sì, sì, devo essere sincero. Ma tutto bene o male, dai, si sta dosando in una giusta alchimia in questa serie. Cosa abbiamo visto? Senza dare troppi spoiler. Allora, io di questo episodio non vorrei dare più grosso. Guarda, purtroppo, cioè, non l'avete visto, cazzi vostri. Lo facciamo? Sì. Tanto abbiamo sempre parlato, spoilerando. Sì, lo so, però che ne so, che quello che è successo in questo episodio è talmente spoileroso che ma sì, ma diciamo, in realtà non è successo niente, perché hanno semplicemente sono andati in un posto per prendere delle informazioni. Ma questo coso c'è stato lo scappucciamento, attenzione. Cioè, abbiamo visto quasi 30 minuti di Pedro Pascal a volto scoperto. 30 minuti, no, ma 5-6 sì. Tra l'altro, battutone del prigioniero che stanno usando come talpa, che con il casco in testa dice maledizione, non si vede niente. Ecco perché sparano di merda. Esatto. Infatti era una battuta, secondo me, assolutamente autoironica, perché veramente. Come fate a indossare questa roba? Non si vede niente. Esatto. E, che poi io mi sono domandato, no, in questo episodio, e ho cercato di fare un ragionamento su tutta la scena dei pirati, no? Che assaltano questi praticamente questi trasporti di questo materiale instabilissimo. Adesso non mi ricordo il nome, Carmine, mi aiuti? Tritium, una roba del genere. Lantanitium, praticamente, no? Che è questo metallo molto particolare che deve essere trasportato con una certa cautela, perché bastano sollecitazioni minime a farlo esplodere. È tipo nitroglicerina, esatto, bastano sollecitazioni minime a far esplodere tutto. E questo metallo, che è preziosissimo per l'impero, è oggetto dell'assalto di grandi orde di pirati di questo pianeta, con questi speeder. Ora, il Ridonium, mi dice Peppe Rizzard su Telegram. Ora la domanda che mi faccio io: ma se tu vuoi assaltare questi trasporti, perché questo materiale è probabilmente la cosa più preziosa che c'è sul tuo pianeta. No, ma loro sono sabotatori, ragazzi. In realtà, perché vuoi far saltare tutto per aria? O sei in realtà una sorta di terrorista che vuole liberare il tuo mondo dalla stretta dell'impero? Allora mi sta bene. Però se me li presenti come pirati e mi dici che fanno saltare i carichi così. Per loro sono pirati, magari. Sì. No, perché guardate, la cosa bella di questo episodio è che ti fa vedere il lato umano dell'impero, perché poi quando loro arrivano a destinazione, tutti che si abbracciano, vai bravo, 5 che vola. E vabbè, d'altra parte, quando fai parte di un esercito, tu stai svolgendo il tuo lavoro. Ma che siete arrivati a portarci voi? Vabbè, no, non far vedere che siamo l'impero, siamo cattivi. Che bello. Sì, però, ragazzi, cioè, la scelta di mettere a fare il generale dell'impero il Night King di Game of Thrones. Ragazzi, insomma, sì, diciamo che è stato un po' così. Però, vabbè, dai, tra l'altro. Che fa più spavento senza trucco che non. Cioè, l'ho trovato più inquietante così che non truccato da non morto. Vabbè, ma tutti i gerarchi, se ci pensi un po', tutti i gerarchi dell'impero hanno sempre queste espressioni così austere e inquietanti, se no non fai carriera. No, sai che cos'è? Tarkin, cioè, era austero, cioè, ricordava vagamente un professore che ha avuto alle medie, ma non era inquietante, cioè era un uomo rigido, crudele per certi versi, ma non faceva paura, nel senso, non ti metteva i brividi addosso. L'attore che fa il Night King struccato, sì. Ma sai che è un'informazione che mi stai dando adesso, perché non mi sono informato come le altre volte sull'episodio in generale, sul me. Intanto salutiamo Angela, che ci ha raggiunto in questo momento in chat. Ciao Angela. Ciao Angela. Sì, sì. Richard Brake è quello con cui parlano, che dice che purtroppo ha dovuto sacrificare la vita dei soldati. No, ma lo so, solo che non ora mi stai dando questa informazione, che era l'attore che faceva il Nightingale, non l'ho associato. Invece in tutto questo, ragazzi, quindi noi siamo arrivati di fatto al il prossimo e l'ultimo episodio, sì, giusto? Sì, sì. Quindi sì, sostanzialmente non si è visto il il pirata rumeno Grogu. È il primo episodio in cui non si vede, dai. È vero, parte, è vero. Ma se vi ho girato un pezzo di intervista a Giancarlo Esposito che ha detto che le sue bambine guardano la serie chiamandola il Yodaccio. Lo schiaccerò quel piccolo bastardo dalle orecchie lunghe. Ma ora io mi domando, ragazzi, io sono preoccupatissimo di una cosa, visto e considerato che è stato già comunicato sempre nel famoso Investor Day dell'altro giorno che la terza stagione del Mandaloriano inizierà il 25 di dicembre del 2021, quindi praticamente tra un anno e 10 giorni. Io spero che questa stagione non finisca con un cliffhanger, perché mi verrebbe da piangere. No, settimana prossima vanno, recuperano Grogu e finisce. Cioè il Dream Team formato da Mandaloriano, mezza ferro, Gina Catamarano, purtroppo con le uova. Secondo me, se non c'è Gianni Minà, non risolvono. Fa da pacere con Giancarlo Esposito. Sì. Vabbè, ragazzi, passiamo a quell'altro argomento lì. La facciamo proprio. Dai, ci sono. Siamo arrivati anche ad un momento di bivio di Discovery, perché l'episodio l'episodio di questo venerdì era un episodio doppio, quindi abbiamo visto la prima metà di un episodio che tra l'altro mi sono fatto una domanda, scusate, mi è venuto in mente adesso, quindi torno rapidamente al Mandaloriano. Perché l'episodio che in originale si chiama The Believer, quindi il credente, in italiano è diventato il Vendicatore? Non domandiamocelo. Sempre per Eternal Spot, Eternal Sunshine, Mind. Esatto. Mamma mia. Come dice Leo Ottolani, perché il mondo del doppiaggio italiano è dominato dal grande dio What the Fuck, che impone ai suoi credenti di trasformare i titoli assolutamente a cazzo de cane. Mi sa di sì, Fanfara. Bene, e insomma siamo arrivati anche a questo episodio doppio in cui c'è in ballo il destino di Filippa, ma di tutto il continuum, e non lo dico a caso, della storia di Discovery, perché ci troviamo in un momento in cui gli eventi ci catapultano in particolar modo Filippa Giorgio nel suo continuum, nel suo universo, quindi nello specchio. Noi tra l'altro abbiamo scoperto che c'è la stessa corona dell'imperatore di Warhammer 40.000. Sì, esatto. Anche quella della Madonna degli Olivi, più o meno. Esatto, come quello di quasi tutte le Madonne delle chiese di sai periferia. Che mi ricordava la coroncina che aveva Romina Mondello, ma nella versione del trio, però. No, Romina Mondello, pardon. Lucia Mondello. Lucia Mondello. Esatto. Lucia Mondello. Sì. No, iconograficamente, veramente i costumi dell'universo specchio sono un po'. Fanno un po' sorridere, perché hanno scelto di usare questo latex per rappresentare DSM. Esatto. Però poi, diciamo, certi dettagli sono veramente un po' grotteschi, diciamo la verità. No, sono un po' kitsch. Però. La coroncina dell'imperatrice Giorgio questa volta era peggio, andavamo oltre il solo kitsch, secondo me. Però che vi devo dire, non è questo il particolare. Cioè, scusate, guardiamo il lato positivo. Da quello che abbiamo capito, nell'universo a specchio c'hanno una vita sessuale estremamente più divertente rispetto a quello dell'universo normale. Cioè, perlomeno se fai parte della flotta, sì, della cerchia imperiale. Sì. Cioè, c'è anche il quartiere a luci rosse sulla Caron. Abbiamo scoperto, che cazzo volete di più? Cioè, voi ce l'avete visto il quartiere a luci rosse sull'ultimo bastione della Federazione? No, loro ce l'hanno. No, vabbè, scusa, mi ricordo male, o su Deep Space Nine c'erano le prostitute? Chiedi a Quark, di solito lui è gestisce. Se non ricordo male, c'era Quark aveva anche un bordello, mi ricordo male. Sì, ma è un universo dove c'è la tecnologia dei ponti olografici con il livello di sensibilità umana. A che serve? Vabbè, quello è pure vero, però insomma. Parlando di Discovery, Pepper Rizzard dice: universo dello specchio. In tutte le altre serie, Star Trek hanno fatto un massimo di 3 puntate per serie, immagino volesse dire. In Discovery tutta una season e basta. Vabbè, proprio tutta una season no, però messo lì così, messo giù pesante come hanno fatto adesso, personalmente mi ha lasciato un po' sbigottito, non mi è piaciuto, però dobbiamo aspettare gli eventi della seconda parte dell'episodio per capire se bestemmiare o no. Tanto Peppe dice ancora: nel Deep Space Nine c'era il ponte ologrammi X-rated gestito da Quark, ok, mi ricordavo qualcosa del genere. Vabbè, insomma, che vabbè, dire. Comunque, parliamo dell'elefante nella stanza. Quello è Q, è un Q. Potrebbe chiamarsi Carl, però potrebbe chiamarsi Q, sì, apostrofo Arl. Quindi, oppure è il continuum dei Carl, cazzo ne sappiamo. Abbiamo visto lo dove so. Q ci sono i Carl. Perché no? Chi può dirlo? Io non lo so, non ne sono sicuro. Ho parlato di continuum prima proprio perché c'è questa sensazione, questa chiave di lettura, però non lo so, potrebbe essere anche tutt'altro, dobbiamo un attimo aspettare. Quello che è certo è che il personaggio di Cronenberg tornerà anche nella quarta stagione. Guarda, a noi fa tanto piacere vedere Cronenberg in generale. Quindi, diciamo che se torna il personaggio nella quarta stagione, in qualche modo ci hanno spoilerato dove saranno nella quarta stagione, a meno che non succeda qualcos'altro. Però insomma, portano dietro nel tempo, ma tanto no, non dietro non ci tornano, possono mandare giusto uno o due persone, così tanto qui quando ne vogliono tagliare le palle. No, noi sappiamo da Calypso che a un certo punto lasceranno l'astronave. Non sappiamo quando, soprattutto non sappiamo se la lasceranno loro. Esatto, un altro Calypso sembrava talmente più avanti nel tempo che chi può dirlo di che stiamo a parlare? No, anche perché poi mille anni lì. Dopo quel momento di fraintendimento in cui collocavamo Calypso in questo continuum, in questa linea temporale, o meglio, in questo presente, perché avevamo confuso. Fraintendimento che è stato generato a bella posta, secondo me. Ma non lo so, non lo so. Però adesso è anche possibile che l'evento di Calypso sia completamente come altri short track, sia completamente avulso dalla narrazione. Anche se c'è l'evoluzione comunque del computer di bordo senziente, insomma. Sì, quello sì, quello ci stiamo arrivando. Una parentesi: tutti sono coscienti che hanno un computer senziente dentro la nave, ma come se niente fosse. Sì, sì, se ne fregano, esatto. No, ma a me fa morire questa cosa, l'ho criticato e lo continuo a criticare anche in questa, dopo questo episodio, che sostanzialmente la Discovery e l'equipaggio della Discovery, malgrado vengano da una arretratezza tecnologica rispetto al presente, perché arrivano da quasi 1000 anni prima, hanno risposte ovvie, pronte, lampanti per tutti i problemi che loro 1000 anni dopo non sono riusciti a risolvere. Di qualunque tipo, che siano diplomatici, che siano sociali, che siano medici, e ho capito, ma per quanto la Discovery oggi abbia un super computer, la tecnologia con cui si sono trovati ad avere a che fare nel futuro è maggiore, è generalmente maggiore, tant'è che l'hanno implementata anche nella Voyager. Un computer nella Discovery, pardon, ciò che sapeva già con quello che sanno in quel momento, quindi fa un mix ed elabora una soluzione migliore rispetto a quelli che pure sta in alcune situazioni. In altre situazioni fa la differenza il motore che permette di spostarsi, diciamo, in tempi immediati. Sì, però Marco, sono, ti ripeto, delle crisi che normalmente potrebbero non essere gestite, perché magari per arrivarci ci vogliono 3 mesi, è già bello che è finito il pericolo o la situazione. Rifacendo l'esempio della crisi di Vulcano / Romulus, quella crisi andava avanti da anni e anni e anni e non erano in grado di gestirla, che loro abbiano non fatto l'hanno ancora gestita, ho capito, siamo fratelli. Comunque, insomma, vediamo un po', perché poi sai di carne al fuoco, come al solito, ne hanno messa tanta. Gli episodi, il numero di episodi rimasti della stagione continua a diminuire. vediamo che si inventeranno. Non risolvono niente, sta stagione non risolvono, cioè questa stagione sarà interlocutore. Scopriranno che cosa è successo e capiranno che l'anno, la stagione successiva potrebbe ripetersi questa cosa e dovranno risolverla, oppure dovranno trovare un nuovo modo per sostituire il delitto. Posso solo dire, speriamo che il buon Patrick Stewart continui a camparci, regali un altro paio di stagioni di Picard, perché a me Discovery ora come ora non mi sta scendendo già più di tanto. Già non ci doveva regalare questa, cioè la prossima, nel senso che abbiamo saputo che la cosa si doveva concludere. Sì, doveva essere una personaggio e poi Picard, però si sono resi conto. Poi si sono resi conto che funzionava, quindi o magari dobbiamo intendere come una unica serie in due parti, visto e considerato che tipica erano fatto solo 10 episodi, chi lo sa. Però vabbè, comunque dai ragazzi, tireremo le somme di questo doppio episodio la prossima settimana, visto e considerato che era appunto un episodio in due parti e dobbiamo capire dove andrà a parare. Nel frattempo io ho visto su Netflix l'altro giorno, proprio ieri tardo pomeriggio, un nuovo film italiano che si chiama L'Isola delle Rose, che è la storia vera, e vi consiglio di vederlo perché tutto sommato è una ricostruzione non particolarmente romanzata, è successo veramente in quei termini, di questa, della vita di questo giovane ingegnere che negli anni 60 nel mare al largo tra le province di Pesaro e Rimini costruisce una piattaforma galleggiante e sostanzialmente crea uno stato indipendente. Vittoria. Pitoria. No, l'Isola delle Rose. Pitoria. Vabbè, dai. Pitoria, sì, quello è Aquaeug. Dentro qua. Esatto. Però quella era sulla terraferma, questa era in acque internazionali. Che è una storia che io avevo di cui avevo letto qualche anno fa e poi l'ho ritrovata quando ho sentito appunto che stavano girando il film. Tra l'altro il film è di Sidney Sibila, lo stesso regista di Lo chiamavano Gigrobò. E devo dire che è anche abbastanza ben fatto il film, tutto sommato. Ha fatto Gigrobò, no, sicuro ha fatto Smetto quando voglio, ha fatto no, Gigrobò. No, è vero, ha fatto Smetto quando voglio. Oggi ragazzi, prima o poi dobbiamo scoperchiare il vaso di Pandora di Lo chiamavano Gigrobò, perché io ho dei pareri contrastanti con quelli della massa. Vabbè. Ma io non ne capisco un cazzo di cinema. Io non lo trovo un film particolarmente significativo, ti dico la verità. Cioè, se togli Marinelli, che bravo, sì, tutto, però cioè. Sì, però fondamentalmente resta una commedia. Cioè, il parallelo supereroistico non c'è, al di là dell'acquisizione del potere, insomma. Però, allora è più un film di supereroi, quello di Salvatores, che il ragazzo invisibile. No, quello è un film di supereroi, ragazzo, sì, invisibile. Il problema di quei film è la recitazione pessima degli attori, altrimenti si potrebbe anche tollerare. E seconda generazione è pure peggio. Salvatores. Cioè là ci potevi mettere pure Kubrick, purtroppo il materiale umano era quello, Vabbè, ho capito, è il regista che in qualche modo determina il materiale umano, nel senso ma che... non lo so, perché alcuni registi, alcuni film li fanno per il mutuo, quindi non so se è questo. Ah, guarda, già il fatto che non c'era un abbatantuono e tutta la sua solita cricca in quei film già era qualcosa, perché insomma, sai, lui ha troppi, il problema di Salvatores è che ha troppi attori feticcio, quindi tant'è che quantomeno Valeria Corino ce l'ha dovuta mettere. Vabbè, per ovvi motivi. Non sappiamo se era sobrio o ubriaca, però non lo sapremo mai, però. Comunque. Forse era Bayer Balantuono, cioè, a questo punto. Vabbè, sì. Faccio un po' potere. Pacco. Lievito. Sto lievitando. Sarebbe stato da vedere, comunque. Sto lievitando. Grande dell'Excelsior, non lo vedo da 20 anni. Mazza, lo fanno comunque, capita spesso di beccarlo, credo, su Cine34, questo canale Mediaset che fa solo film italiani. Ma io non guardo mai la TV, capisco, non ce l'ho neanche. Vabbè, ma guarda, secondo me se cerchi su Amazon Prime, cioè, c'è tutta la raccolta di roba. È possibilissimo. Poco lo trovo. Ecco. Vabbè, ragazzi, che dire? L'Isola delle Rose è una storia carina, se avete modo guardatelo, perché poi sono anche abbastanza bravi gli attori, come dicevo, il protagonista è in questo momento un blackout bruttissimo ed è solo lunedì sera, pensa se devo arrivare a fine settimana. Come si chiama il protagonista dell'Isola delle Rose, ragazzi, aiutatemi. Non l'ho visto, cioè pensa a quello che ha fatto Leopardi, il giovane favoloso, un puttanatone di film che Dio solo lo sa. Come si chiama? Elio Germano, ce l'ho fatta, mi sono riacceso. E oltre a lui ci sono anche bravi attori, c'è cioè Fabrizio Bentivoglio che interpreta il ministro Restivo, che era il ministero degli interni che ha gestito questa crisi, c'era Luca Zingaretti, ma soprattutto, ragazzi, c'era nel ruolo del padre il buon oddio, ma perché oggi è così, il buon Andrea Pennacchi. Quindi che esce dal suo ruolo naturale del Poiana, che tra l'altro mi ha invece stupito in un altro film che ho visto l'altro giorno, che è Io vi troverò dei poveri, che è questo film che si chiama La Belva con oggi non tirerò fuori il nome di un attore nemmeno per sbaglio. Non farlo, tranquillo. No, devo farlo perché ormai ho iniziato un discorso. Era Gigi Remigi. Fabrizio Gifuni. Fabrizio Gifuni, altro attore italiano abbastanza bravo, che è praticamente questo padre, ex membro delle forze speciali, che deve salvare la figlia che viene rapita da un malavitoso, anche un po' per caso viene rapita in un certo senso, e il malavitoso di turno è Andrea Pennacchi. Io non lo sapevo quando me lo sono visto fare il cattivo, ma il cattivo serio, perché non è una commedia. Dico, boh, vabbè, questo chi me lo doveva dire che avrei visto Andrea Pennacchi oltre il ruolo del Poiana. Vabbè, comunque insomma sta lavorando parecchio il buon Pennacchi, in cui più adesso che tutto il resto della sua carriera, probabilmente. Sua carriera. Però va bene così. Vabbè, meglio tardi che mai. Insomma, se volete vedere un paio di film italiani. No, sì, io mi sto invece. Aspetta, che sto scrivendo una cosa sbagliata. Il trailer di un film che deve uscire, ma non ho ancora capito. Se esce su qualche streaming o qualche altra cosa. Perché d'altra parte, i cinema sono chiusi. Sì, ma diciamo, magari forse esce sotto forma di streaming. Un film con, aspetta, vediamo se riesco a capire come si chiama. L'attore di Better Call Saul. Ah, sì, Bob Odenkirk. Bob Odenkirk, ragazzo, film si chiama Io sono nessuno. Ragazzi, ma tu lo sai chi è il regista? Chi è il regista di quel film? No. Yeah. È Gigi Remigi. È sempre Gigi Remigi. No, il film di cui stai parlando è realizzato dai produttori e soprattutto, se non sbaglio, anche dal regista John Wick. Esatto. Ah, sì, sicuro. Infatti lui è un po' il John Wick dei poveri, nel senso che comunque l'incipit gli vanno a rompere il cazzo e lui si incazza, lui sta in pensione, tranquillo, lui fa uno tipo il killer ultra spietato e torna a fare il killer ultra spietato, però al contrario di John Wick è una commedia, quindi si trova a fare il bullo, cioè il bullo, andare a bullizzare i cattivi perché hanno trattato male la figlia del tipo così. Ma tanto commedia però non è, cioè ha un tono un po' più leggero di John Wick, è meno oscuro, però comunque è comunque un film d'azione abbastanza, assolutamente, però è una commedia gradasso, è un capolavoro, è una commedia d'azione che io vorrò vedere sicuramente. Sì, sì, assolutamente anch'io. Secondo me siamo a livelli più comici, più divertenti, meno pesanti di Atomica Bionda, per capirci. Vabbè, Atomica Bionda girava tutto intorno alle coreografie, cioè come sì, film, ci sia qualche coreografia, certo lui c'è una certa, insomma, non so se dovrà utilizzare molto. Vabbè, oh, raga, cioè, pure che Diuriz c'è una certa, che boh. Ah, ok, sì, sì. Vabbè, però, ho capito, però proprio perché facciamo il parallelo nei vari John Wick non è che Keanu Reeves faccia tutte queste piroette, cioè generalmente è anche abbastanza inerte, semplicemente i proiettili curvano per non colpirlo, però vabbè, lui fa ci sono diversi video di lui che fa allenamenti di praticamente tiro tecnico, insomma, cioè che è anche abbastanza ben addentrata la cosa. No, ma tutto sommato sì, però voglio dire, poi bisogna capire quando è lui, quando è una controfigura, ma questo ovviamente vale per tutti i film. Io avevo visto, non so se voi seguite il canale di Slim Dogs su YouTube. Sì. E ho visto di recente uno dei Come cazzo hanno fatto, in cui facevano vedere come sono state girate alcune delle scene d'azione di Atomica Bionda. È vero che Charlize Theron ha fatto molte, molte scene in, in prima persona senza controfigura, però insomma, poi hanno spiegato come hanno fatto a simulare questo piano sequenza unico, che in realtà unico non era, però gli stacchi erano praticamente impercettibili della scena, la famosa scena nell'appartamento, nel, lungo le scale del palazzo, no? Che lei entra, libera sto tizio, riscende. A vederlo così sembra veramente l'unico piano sequenza. Non poteva esserlo, infatti non lo è. Però è carino anche vedere come hanno fatto per nascondere i tagli, insomma, molto molto carino. Quindi se vi capita, sono gli Slim Dogs, il, che tra l'altro è un'agenzia di produzione video di Roma, di qua dietro, stanno a Roma Est e... Cane Secco. Sì, Cane Secco è il fondatore fondamentalmente di Slim Dogs. Esatto. Questi via cani secchi. Esatto. Vabbè, bene. Vabbè ragazzi, tutto direi tutto che dobbiamo andare a Night City. Io dai, voglio capire quando, a proposito di Keanu Reeves. Non se, Marco, guarda che per quanto riguarda l'uscita di tutti questi film c'è un grossissimo punto interrogativo, perché non tutti i distributori, non tutte le major stanno avendo la stessa strategia. Sì, c'è chi vuole andare contemporaneamente in streaming e in sala, quelle aperte, però ragazzi, cioè, c'è di contro che questi i film li hanno girati, la pellicola ce l'hanno, da qualche parte deve uscire, cioè non è che se la possono tenere nel cassetto. Anche perché generalmente i fondi per produrre film, soprattutto quelli ad alto budget, vengono anticipati da finanziatori, da banche, eccetera, quindi a un certo punto i soldi arrivano. Se un ritorno lo devi fare, cioè non... Il problema è che poi se te la giochi male, come è successo con Tenet, ti bruci un film che potenzialmente poteva incassare un miliardo e non ti ricopri nemmeno le spese. Allora ragazzi, dopo averlo visto Tenet, sul fatto che possa aver incassato un miliardo magari pure no. Vabbè, però... la gente ci sarebbe andata per poi sì, magari bestemmiare. Non dire nulla perché io non l'ho visto, me lo voglio... No, io l'ho visto ora che uscirò in un video... Sì, Blu-ray. Sai che cos'è? Non avrà tenaglia temporale, quindi adesso lo sai che cos'è. Sì, ora lo so che cos'è. E soprattutto ho capito come andava visto quel film. Cioè, Io pensavo che lo devo rivedere. In realtà, ragazzi, cioè, senza fare spoiler, allora noi nei film di Nolan siamo abituati a doverlo dedurre il meccanismo che sta dietro la trovata narrativa del film, cioè non te la spiegano il più delle volte. Internet Nolan ha fatto un passo nella direzione dello spettatore, te l'ha spiegato, cioè ti ha detto succede per questo, devi usare la mascherina se no succede questo, esatto. Quindi le regole sono queste, almeno stavolta la regola del gioco ci sono delle cose che io non che succedono senza però spiegare perché succedono, cioè tutta la sequenza iniziale dove praticamente che si svolge sulle piattaforme, sì. Poi dopo lui va in un posto che non diciamo, l'isola delle rose? Che non ti spiega perché va lì, perché parla con questa, cioè, ma non te lo fa capire perché. Io devo capirla sta cosa. Quindi secondo me ci sono dei pezzi che hanno tagliato. Cioè, come si impressione che uscirà un extra cut Directors Mega Culturals quando saranno riaperti i cinema, però la quella sarà quella. Quindi film di 4 ore. Ma in realtà Tenet al cinema c'è uscito. Sì, lo so. Quando per questo gli faranno la versione ultra mega extended da 4 ore al cinema quando riapriranno. Vabbè ragazzi, comunque anche per oggi la nostra ora e mezzo abbondante ce la siamo portata a casa. Io quindi, se me lo consentite, mi incamminerei verso i nostri saluti. Vai. E non posso che iniziare salutando il compagno di tante, di ormai 3 stagioni abbondanti di OGM, Marco Gualdi. Ciao, ci vediamo lunedì prossimo, ciao. Da quasi Padania, dalle terre della nebbia e delle risaie, Lobby Francesco Frontali. Comunque Sony nega i rimborsi su PS4 e PS5 di Cyberpunk. Non ho capito. Sony sta negando i rimborsi di Cyberpunk 2077. Si vede che sono troppi, non gli stanno dietro. Lo scopriremo nei prossimi giorni. Saluto anche Carmine Puccio, console dalla assolata, si fa per dire, Puglia. Torno a rimergermi a Night City anch'io, ragazzi. Abbiamo una città da bruciare. E saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato nell'arco della di questa ora e mezza, quindi a cominciare da DJ Hooker di Revolve Radio, cuciniere dallo spazio. DJ Hooker, secondo me vorrebbe essere chiamato DJ Hooker. Cuciniere dallo spazio profondo, Peppe Rizzard, Marble Madness, Scalo, Angela, e non so se ho dimenticato qualcuno, se sì, perdonate. Ah, al 9000 che ci ha raggiunto più o meno a metà puntata. Ultimo ma non ultimo, perché lui è sempre il primo nei nostri pensieri, il buon Simone Pizzi, che questa sera non è dei nostri perché rifiatava un pochino l'ugola avendo fatto un po' di dirette e un po' di podcast vari in questi giorni. Se tutto va bene, settimana prossima tornerà ad essere con noi. Io saluto lui, saluto voi, saluto loro, saluto egli, saluto ello, saluto illo, ho salutato un po' tutti, non mi resta che augurarvi una buona notte. Ciao ciao.